24, i gialli della storia. Riprendiamo su Mix 24 la storia dell'economia globale. Nel 1988 Margaret Thatcher, primo ministro britannico e sostenitrice del libero mercato, è a Danzica per una visita ufficiale e lì chiede al governo comunista di poter incontrare Lech Walesa, il leader di Solidarność, il sindacato indipendente dei lavoratori. La richiesta della Thatcher mette il governo polacco di fronte a una scelta molto dura. Walesa è un personaggio scomodo. Nel 1981 è stato agli arresti domiciliari per la sua attività sindacale e da allora continua a chiedere la legalizzazione di Solidarność e a organizzare manifestazioni di protesta. Insomma, è un personaggio politico di primo piano nella lotta contro il potere e l'ingerenza sovietica in Polonia. Non si poteva dire di no alla signora Thatcher. Nessuno le opponeva un rifiuto. Accorgersi di noi e chiedere un incontro con me e con gli altri fu un avvenimento storico. Entrò nella città di Danzica a bordo di una piccola imbarcazione e mentre passava davanti al cantiere navale e alle gru fu salutata calorosamente dai lavoratori portuali che si erano affollati sulle banchine. Si capiva che si trattava di un evento straordinario. I lavoratori portuali si erano arrampicati sui cancelli ed erano anche saliti sui tetti che circondavano il cantiere navale. La Thatcher era una donna di polso e aveva conquistato i cuori della gente di Danzica. I lavoratori di Solidarność conducono la Thatcher in una chiesa. Ascoltiamo il racconto di Charles Powell, consigliere di Margaret Thatcher e il padre della chiesa di Santa Brigida Jankowski. Una grande folla cantava l'inno di Solidarność. Fu indimenticabile. Mi accorsi che era molto emozionata e commossa da quella visita. I suoi occhi attenti registravano tutto ciò che le accadeva intorno. Fu una delle poche volte in cui vidi le lacrime negli occhi della signora Thatcher. Era commossa da questa espressione di desiderio di libertà. Ed è proprio il sacerdote del movimento a ospitare la Thatcher e i leader di Solidarność. Ascoltiamo un discorso inedito del primo ministro Thatcher. Istituendo una società libera, regolamentata da leggi, si creano dignità per l'individuo e prosperità. Anche se sembrava autoritaria e invadente, i polacchi le furono molto grati. Disse, voi di Solidarność dovete avere un'ideologia e dei programmi, non basta essere popolari. Come strutturereste il processo da dove siete adesso a dove vorreste arrivare? Qualsiasi cosa vogliate fare, non basta concepirla, ma occorre studiare il modo pratico per ottenerla. Se doveste fissare 10 punti attraverso cui raggiungere i vostri obiettivi, quali pensate che potrebbero essere? A un certo punto la Thatcher chiese a Walesa, come farete a informare il governo dei vostri piani? Lui si mise a ridere e disse, semplice, questa stanza è piena di microspie. L'incontro con la signora Thatcher consentì a questi futuri politici di rendersi conto delle opportunità che avevano. Senza questo incontro non avremmo vinto, è sicuro. Ci sarebbero stati dei ritardi, delle grosse difficoltà e magari avrebbero addirittura eliminato il nostro movimento. Il messaggio della signora Thatcher suggerisce una via d'uscita da una politica economica sommersa da debiti e razionamenti. Mentre le economie comuniste sprofondavano in una crisi sempre più acuta, i riformisti e gli economisti del mondo sovietico cominciarono a rivolgersi all'esterno per cercare soluzioni e strade alternative. Guardavano alle economie miracolose dell'Asia, guardavano cosa accadeva negli Stati Uniti, in Europa occidentale e addirittura in America Latina. Negli anni Ottanta molti paesi, come l'Unione Sovietica